Brasil. La nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. È veramente un inizio di puntata come già. Questa vittoria non me l'aspettavo dire neanche io, perché ho trovato il momento giusto che si sono fermati, un chilometro e mezzo all'arrivo sono partito e poi l'ultimo chilometro sembrava interminabile perché c'era un vento contrario e ho fatto una fatica veramente fino alla fine per cercare di portare via questa vittoria a casa. I guess for me, really, as I was saying on the podium today, just really proving, just never giving up, you know, turning negatives into positives, family support really. My family helped me turn it around last night, and also the fans. I knew I was coming here for with an incredible crowd, a group of people coming to support me, and I could see it on the parade lap. And when we stopped and saw them, so you couldn't believe the will that I have in my heart to win it for them. Ladies and gentlemen, the Wimbledon champion, Novak Djokovic. In verticale, poi gol! Poi Pipita! La prima palla da Gabriele Gore! Gonzalo Higuain! 1-0! La ricorsa di Umagna! E poi Recrulla! È entrato per questo! E porta l'Olanda! In semifinale a Zappasto! 8-0-0-24-0-0-24, abbiamo dato un lunedì di riposo a Carlo Genta, ma io aspetto le vostre telefonate. 8-0-0-24-0-0-24, le aspetto perché voglio sapere secondo voi qual è il podio delle emozioni, dei personaggi di un fine settimana che lo abbiamo sentito, è stato un concentrato di momenti da registrare e mettere via. È stato il fine settimana delle lacrime di Neymar e di Di Maria, è stato il fine settimana dei rigori parati da Krul, il gigante olandese, che poi è stata la scommessa vinta da Van Gaal. Poi c'è stato il botto di Raikkonen a Silverstone, c'è stato il duello tra Alonso e Vettel, la Mercedes di Rosberg che si è ammutolita e ha così riaperto il mondiale, o ancora c'è stata quella galleria di meraviglie che è stata la finale di Wimbledon ieri, 4 ore, una finale che è finita giusto nel momento in cui a Sheffield un italiano, Vincenzo Nibali, scendeva dal podio con addosso una maglia color giallo fiammante. E questa secondo me è l'immagine più bella, soprattutto per lo sport italiano, di questo fine settimana. Però aspetto sempre di sapere da voi che cosa ne pensate. 800 24 00 24, convocazioni aperte, questa è la settimana poi delle semifinali, la settimana che ci porta alla grande finale del Maracanã. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, se volete scrivere un SMS. Io lo ripeto, lo vado dicendo da qualche settimana, a maggior ragione adesso, questo non è il mondiale del Brasile, e non solo per l'infortunio di Neymar, che anzi è secondo me un assist meraviglioso per Scolari, perché comunque vada d'ora in poi sarà sempre e comunque colpa di Zuniga. Questo non è il mondiale del Brasile perché il Brasile non è la più forte delle 4 squadre che sono arrivate a queste semifinali ricche di nobiltà. Anche su questo vi aspetto. 800 24 00 24, ultime dal Brasile, si discute e molto del tentativo della Federcalcio brasiliana di far cancellare la squalifica di Thiago Silva, tentativo con, raccontano i ben informati, 0 possibilità di essere accolto. ma che rappresenta anche una forma di pressione del Brasile, che evidentemente non si sente così forte nei confronti della FIFA, in vista anche della semifinale di domani ore 22, Belo Horizonte contro la Germania. Poi c'è questa voce di Neymar che vorrebbe tentare il recupero in vista di un'eventuale finale del Maracanã. Il dolore è passato, la vertebra è sempre fratturata, ma Neymar ha detto: se volete posso provarci. I medici gli hanno detto di no. Un tentativo simile, raccontano, lo sta facendo anche Di Maria. E poi ci sono le perplessità legate alla designazione di Rodriguez Moreno, arbitro messicano, lo ricordate, quello d'Italia-Uruguay, quello del morso di Suarez a Chiellini, non visto, del cartellino rosso per Marchisio. Pensiero personale, arbitro che da tempo avrebbe dovuto essere di ritorno verso il Messico, è rimasto in Brasile e la FIFA lo ha designato per la prima delle due semifinali, quella nobile, Brasile-Germania, quella tra Brasile e Germania. 800 24 00 24, c'è già chi scrive: Nibali, Alonso, Djokovic, questo il podio delle emozioni di questo fine settimana. Gianluca da Bologna, c'è anche chi dice: per una vittoria al Tour sembra che Nibali lo abbia già vinto. No, anzi, partiremo proprio da qui, cioè per capire se la sua impresa di ieri non sia stata un'apertura forse frettolosa su un'avventura che deve durare almeno altre 19 tappe. Tutti convocati. Siamo stati sempre davanti, un grande lavoro della squadra e come sempre un po' di pericolo perché tante persone, sempre un po' in mezzo alla strada a fare le foto, però fortunatamente questi due giorni sono andati abbastanza tranquilli, poi è arrivata questa bella vittoria, quindi ancora più contento. Con il duro lavoro e sacrifici stanno arrivando un po' di soddisfazioni, quindi anche il nervosismo si placa e sono più tranquillo, anche la mia squadra è consapevole che stiamo tutti quanti forti, perché oggi nel finale eravamo in tanti di noi davanti, possiamo fare bene a questo tour e siamo fiduciosi, non diciamo nulla per scaramanzia, però vediamo. Vai Vincenzo, la vittoria di tappa è tua, potrebbe essere anche maglia gialla, mentre Chris Froome ha reagito. Adesso non si deve più voltare Vincenzo, che ha già superato anche il cartello dei 250 metri e dietro sembra che si siano di nuovo fermati. Va verso la vittoria Vincenzo Nibali, verso il suo primo trionfo al Tour de France, con coraggio, con grande coraggio. Vincenzo Nibali, che grandissima vittoria la sua. Ragione anche Orazio da Reggio Emilia, che scrive: com'è possibile dimenticare la vittoria di Sara Errani e Roberta Vinci in doppia a Wimbledon? Va bene, mettiamo anche le Cichi nell'elenco delle grandissime emozioni di questo fine settimana, però io voglio dire, io mi ha commosso ieri Vincenzo Nibali per mille motivi, e non solo per la bellezza del gesto tecnico, ma anche per quello che ha rappresentato, e voglio condividere questo sentimento intanto con Pier Augusto Stagi, che saluto. Ciao Pier, la nostra voce storica per il ciclismo, e poi con Davide Cassani, CT della nostra nazionale. Ciao Davide. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi ha commosso Davide non solo per la bellezza del gesto tecnico, ma anche per tutto quello che abbiamo letto che Nibali ha attraversato negli ultimi mesi, comprese lettere di richiamo per scarso rendimento, difficoltà di rapporto all'interno della sua squadra. E poi è arrivato il titolo italiano e ieri questa azione che i francesi oggi hanno definito da opportunista, non so se prendendoci. Parli con me? Sì. Guarda, Io ho vissuto un po', ho letto tutto quello che è stato scritto su Vincenzo Nibali. All'inizio di giugno sono andato a trovarlo a Lugano, a casa sua, volevo sincerarmi dalla situazione, anche perché poi potrebbe essere un uomo importante per la nazionale. E ho trovato ad inizio giugno un Nibali sereno, convinto, sicuro di aver fatto un ottimo lavoro, e lo ha dimostrato al campionato italiano e lo ha dimostrato ieri. È stato fantastico, perché non era facile vincere una tappa come quella, e ha dimostrato di stare bene di testa e di gambe. Poi sai, indossare la maglia gialla al secondo giorno, bellissima soddisfazione, ma è un peso. Però sai, con le caratteristiche di Vincenzo, soprattutto con il carattere, sono convinto che non gli pesi poi più di tanto una maglia del genere. Sì, per fare un numero come quello di ieri serve farsi guidare, credo, dall'istinto, dal cuore, più che da una fredda programmazione. Froome è l'atleta che rappresenta in tutto quel che vuol dire appunto la dinamica di una condotta di corsa. Sta solo correre in una maniera, no? Squadra davanti e lui se ne va 3, 4, 5 km dall'arrivo e vince. Nibali è un po' più come Contador, è più estroso, è uno che cerca di cogliere l'attimo, e ieri non ha sbagliato nulla. Pier, meraviglioso oggi la copertina dell'Equipe, con questa grandissima foto di Vincenzo Nibali sul traguardo di Sheffield, il titolo che più o meno recita: le bestie sono uscite, ma bestie in senso assolutamente positivo. Mi racconti la mattina dopo, se l'ha incrociato la faccia, gli occhi di Nibali, che ieri era evidentemente l'immagine della felicità, ma probabilmente un minuto dopo ha cominciato anche a ragionare su quelle che possono essere da oggi le prospettive. Guarda, una delle caratteristiche di Vincenzo Nibali, e l'ha detto poco fa anche Davide Cassani, che saluto, è la serenità. Lui prende tutto con grandissima serenità, sembra quasi che lo tocchi solo in parte. In realtà dentro di sé ha una carica emotiva eccezionale, quindi lui sia ieri sera, dopo un'oretta da questo evento, no, che l'ha proiettato a tutti gli effetti in una nuova dimensione, perché sta entrando a piè passi in un'altra dimensione di ciclista universale, perché ieri una delle domande che ha fatto Vincenzo è stato proprio: ma quanti giornalisti ci sono? Qui sono 1400 giornalisti, non è che li conti lungo le tre settimane, sono tutti assieme quasi tutti i giorni, e forse ne arriveranno anche di più. C'è veramente il mondo, e quindi vincere una tappa al Tour de France e vestire la maglia gialla vuol dire anche ti porta in un'altra dimensione e lui da questa mattina si sta godendo insieme alla sua squadra e insieme a Beppe Martinelli, che questa maglia fondamentalmente l'hanno voluta, certo, l'hanno detto a bassa voce, ma ti garantisco che se ne parlava già anche al campionato italiano di Malè. Vedrai, mi diceva Beppe, guarda che sta bene, guarda come andrà il campionato italiano, e questo lo diceva il giorno prima. Poi il giorno dopo hai visto com'è andato, adesso c'ha più convinzione, adesso è più determinato. Sì, insomma, il 6 luglio era una data cerchiata in rosso sul calendario di Nibali della Astana. E io gli dissi: Beppe, però c'è una tappa che è pericolosa, che è la quinta, quella della Parigi-Roubaix, col pavé, quella lì è ostica, sì, vedrai che però andiamo bene anche lì, abbiamo una squadra attrezzata, e soprattutto l'importante è dobbiamo arrivare lì con le ammiraglie il più vicino possibile a lui. Per avere l'ammiraglia vicino bisogna essere in testa alla classifica. Bisogna essere davanti in classifica. Ecco che la vittoria di ieri serve per il morale, serve perché è una verifica importante, serve per la tua testa, per il tuo cuore, ma serve anche per una strategia di squadra. E quindi c'era molta programmazione oltre all'istinto. Io voglio chiedere a Davide Cassani, che ha detto è molto pesante prendere la maglia gialla al secondo giorno. Allora, se come, ma lo scrivono anche in tanti, 349-238-6666, ha preso la maglia troppo presto, per chi vuole vincere il Tour è un rischio, è un peso, conviene perderla questa maglia, o ha ragione Stagi che racconta: attenzione, c'è dietro una programmazione? Allora, giustamente l'osservazione di Staggi è stata perfetta, davvero direttore sportivo, anche se non lo è. Sì, lo promuoviamo sul campo. Nella tappa di dopodomani avere l'ammiraglia numero uno è fondamentale, lo dimostrano tutte le rubriche che abbiamo visto. Se sei la macchina numero 15 o numero 18, quando arriva l'ammiraglia sono già passati i primi, i secondi, i terzi ed è passato anche l'ultimo degli ultimi. E quindi è fondamentale. Poi, dopo la tappa di dopodomani, secondo me sarebbe più opportuno perdere la maglia gialla. Basta vedere anche la tappa di oggi, mancano 115 km, ci sono due corridori davanti e che c'è naturalmente a tirare i giovani di Vincenzo Nibali. Non so se potranno fare così per 3 settimane, la Stan è una squadra forte, fortissima, vabbè, in tappe come oggi si sacrificano 3-4 corridori. Però se tu vuoi vincere il Tour, come Vincenzo Nibali sta cercando di fare, portare la maglia gialla per 3 settimane non è semplice per niente, anche perché non dimentichiamolo, tra controllo antidoping, conferenza stampa e annessi e connessi, tu arrivi in albergo 2 ore dopo gli altri. È un lavoro anche essere leader del Tour de France, ma ce lo raccontava anche Pier Augusto Staggi, 1400 inviati, mille domande a cui rispondere, anche mille suggestioni. Io lo chiedo a tutti e due, oggi ovviamente i giornali sono pieni del racconto, l'ultima maglia gialla, quella nel 2009 di Rinaldo Nocentini, ma parlavamo di un'avventura diversa, e poi la grande suggestione invece è quella del 98, che è l'ultima maglia gialla presa con una vittoria di tappa, Marco Pantani, e ovviamente come tutti sappiamo è anche l'ultimo Tour de France targato Italia. Nibali può vincerlo o no questo Tour, Davide? Sì, può vincerlo, anche se non sarà semplice, perché Contador e Froome sono forti, sono fortissimi. Ok, i numeri sono importanti fino ad un certo punto, ma quello che ha fatto vedere l'anno scorso Nibali, soprattutto al Giro d'Italia, parlo di numeri, di vatta, di prestazioni, non erano lontane, anzi erano paragonabili alle migliori prestazioni di Froome e Contador. Vuol dire che Nibali se la può giocare con questi due corridori, poi forse ha qualche cosina in meno, ma non credo più di tanto, forse solamente a cronometro. E quindi secondo me Nibali se la può giocare sia con Froome che con Contador. Pier, e ti rimando anche le parole di Bernard Hinault, Nibali è stato bravo ad approfittare della rivalità tra Froome e Contador ed è quello che deve fare per tutto il Tour, quasi da terzo incomodo. È così, anzi io spero che addirittura non ci sia solo la rivalità tra Contador e Froome, ma spero che entrino nella battaglia anche Rui Costa, Alejandro Valverde, Kwiatkowski. Più ce n'è meglio è, perché allora a quel punto la corsa diventa meno controllabile e un corridore estroso, intelligente, capace di cogliere il momento come Vincenzo Nibali può veramente fare il colpo grosso. Davide ha detto, condivido quello che ha detto, è stato perfetto, sulla carta. Se noi usiamo solamente la logica e i watt, quindi le potenzialità e la potenza dei due corridori, Froome e Contador, loro sono sicuramente i favoriti di questo Tour de France, e diciamo che Nibali può al massimo, usando solo la logica, lottare per il terzo posto. Ma visto che lo sport, grazie al cielo, si pratica ogni giorno, ogni giornata va riverificato tutto ciò che madre natura ti ha dato. Tu puoi essere il più forte, ma io ti posso battere. Bene, io credo che fino alla fine Vincenzo sarà lì a battersi per battere quei due là. Sì, il ciclismo, come il calcio, noi lo diciamo mille volte, è materia liquida e quindi non si fa soltanto sulla carta con le tattiche, i watt e con considerazioni fredde e anche oggettive, ma poi si va in strada e si pedala. Grazie Pier Augusto. Grazie a voi, buon pomeriggio, ciao Davide. Grazie anche a Davide Cassani, grazie. Ciao, grazie a te, grazie e un salutone a Pier. 800 24 00 24, intanto via sms mi state mandando il podio del vostro fine settimana di queste grandissime emozioni. C'è chi dice Nibali, Alonso, Djokovic, c'è chi dice che l'emozione più grande è stata vedere un leone come Federer lottare per vincere per l'ottava volta Wimbledon, e poi tanti voti anche per le cicchi, quindi le mettiamo d'onore sul podio di questo fine settimana. Ci fermiamo, torniamo subito. Grande Vincenzo Nibali, che grandissima vittoria la sua! Nibali al Tour de France, vince lui! Tutti convocati. Sì, stiamo guardando anche la tappa di oggi del Tour de France. Rispondo ad Ulisse, migliaia e migliaia di spettatori inglesi e bordi delle strade, che questo fine settimana è stata un'altra delle emozioni di questo weekend, vedere milioni di persone che hanno accompagnato i primi chilometri di questo Tour de France. Ci sono poi anche notizie di calciomercato, poi magari le diamo con calma, tanto siamo qui fino alle 16 insieme, 800 24 00 24. Fra mille voci, l'unica certezza è che Ashley Cole è sbarcato a Roma, visite, poi firmerà il contratto ed è l'ennesimo rinforzo della Roma in vista della prossima stagione. Andrea da Milano. Andrea. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la convocazione. Prego. Io sinceramente mi domando ancora come facciano le persone ad esaltarsi per il ciclismo, cioè veramente uno degli sport più messi peggio dal punto di vista del doping, e ancora riuscite ad esaltarvi per queste imprese, cioè sembra quasi che abbiate non so, gli occhi coperti. Sì, fino a prova contraria noi proviamo a crederci e ad esaltarci. Il giorno in cui ci diranno che anche l'impresa di ieri di Nibali è una patacca, noi ne prenderemo atto e saremo qui a raccontarvelo, ma non capisco perché non dovremmo farlo. Non dovremmo farlo perché non c'è più speranza nello sport, e a maggior ragione in sport di fatica come il ciclismo, nei quali ormai non è più accettabile il concetto del doping, ormai è quanto ci si dopa, non se ci si dopa, ma quanto, cioè una soglia oltre la quale ok, allora forse non lo facciamo più. E quindi non raccontiamo nemmeno del calcio, ad esempio oggi interessantissima quanto scritto sulla Repubblica da Marco Mensurati, che racconta come in tempo quasi reale ha ricevuto la previsione di come sarebbero finite due partite dei preliminari di Europa League, su cui evidentemente sarebbe carino aprire un'inchiesta. Non raccontiamo nulla allora, Andrea, si può anche fare, A noi piace emozionarci sperando che quella di Nibali non sia una patacca. Bruno da Roma. Bruno. Buongiorno. Buongiorno. Mi dispiace che abbiano abbandonato la trasmissione i due esperti di ciclismo, comunque lei è sicuramente più esperto di me, quindi volevo un conforto, ma una conferma su quello che penso riguardo alla vittoria splendida di Nibali ieri, e non concordo con il radioascoltatore precedente sul doping, perché altrimenti si dovrebbe mettere sotto accusa tutti gli sport, come giustamente in maniera neanche troppo velata faceva osservare lei. Comunque, tornando a Nibali, a mio avviso ha fatto una splendida azione, però non vedo il motivo per cui, non solamente Nibali, il ciclista debba perdere dei secondi sul traguardo cominciando a battersi il petto e ad alzare le spalle. Sì, perché credo che questa non sia una vittoria funzionale a vincere il Tour, e quindi Bruno, si può anche gioire e consegnare ai posteri quella fotografia, si può anche fare un piacere allo sponsor, e quindi si arriva non piegati in due sulla bicicletta e ci si consegna quelle foto che oggi sono sulle prime pagine in Italia, ma non solo. Vi ho raccontato la prima pagina dell'Equipe e sono già quello un premio per Nibali e per gli altri come lui. Giovanni da Pescara. Giovanni, abbassa la radio però, Giovanni, per cortesia, abbassa la radio, se no non ti si sente. Eccoci qua. Allora, le volevo solo fare una piccola riflessione, visto che tutti i giorni si è parlato di allenatori dell'Italia, Mancini, Lippi, Allegri, eccetera eccetera. Volevo solo fare una piccola, visto che voi ne mangiate tantissimo di calcio, questi allenatori qua, visto che hanno avuto fior di giocatori, un esempio, Mourinho, quando è stato con l'Inter ha fatto l'ira di Dio, sì, in 3 anni, andando a Real Madrid non ha fatto una mazza. Sì, ha fatto meno di quello per cui era stato chiamato e difatti alla fine è stato mandato via. Appunto, Ancelotti con il Paris Saint Germain lo stesso, Mancini lo stesso. Allora io vi faccio uno scoop, visto che un allenatore che ha bisogno di ragazzi freschi, giovani, che abbiano voglia di giocare, e lui, anche se io non lo posso vedere, Zeman. Sì, ma per cosa, Giovanni? Per l'allenatore dell'Italia. Zeman, ma a parte che Zeman appena, mi risulta, ha appena firmato col Cagliari, sta iniziando una nuova avventura, e poi secondo me il discorso è sempre quello che c'è alla base di tutto, Giovanni, cioè un conto è fare il tecnico per una squadra di club e un conto è fare l'allenatore della nazionale, servono due profili diversi. Mi sembra che Zeman, con le qualità e i limiti che ha dimostrato di avere in carriera, sia un allenatore, non un selezionatore, Giovanni. Certamente, però io quando Zeman, io sono di Campobasso e abito a Pescara, quando Zeman è andato via dal Pescara, io ho detto a priori che ha rovinato due squadre, il Pescara e la Roma, perché Zeman, dove ci stanno i grossi giocatori, non riesce a gestire la squadra. Però Zeman, quando trova i giocatori giovani che hanno voglia di giocare, hanno voglia di correre, li fa correre così tanto che tutti gli altri allenatori non ci riescono. Era sì, la mia opinione. Però credo che Zeman, al di là, ripeto, che è l'allenatore del Cagliari, non sia il profilo giusto per quello del CT. Io ho un'idea su quale sia il profilo giusto, e ad esempio il punto numero uno è che non deve essere un CT low cost, cioè scelto giusto perché costa poco. Però questo è tema di strettissima attualità, perché oggi ad esempio è una giornata simbolicamente importante per quello che è lo stato di salute del calcio italiano. Ci hanno dato una bella repassata, o prendere a demissionare, che ho guaiato non sa spiegare. Al termine della partita ho parlato con il presidente federale, con Demetrio Bertini, con Antonello Valentini, e visto che il progetto tecnico è di mia responsabilità, ho detto loro che rassegno le mie dimissioni. Perché quando un progetto tecnico fallisce è giusto che ci si prenda la responsabilità. Pallone ancora verso il centro, esatto, l'entrata, l'Uruguay in vantaggio. L'Uruguay è in vantaggio, ha segnato Godin. Come al solito Godin. Guardi Schettino, che lei si è salvato forte dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Oggi alle ore 12:11 il comandante Prandelli ha ufficialmente abbandonato la nave, comunicato del Galatasaray. Prandelli è il nuovo allenatore del club, contratto biennale, sbarco all'aeroporto Ataturk di Istanbul alle ore 18. Domani presentazione e conferenza stampa. Ciao Cesare. Non so, però questo è un mio pensiero, non so se ci mancherà moltissimo. 800 24 00 24, voglio anche sapere cosa ne pensate voi, e voglio sapere cosa ne pensa Roberto Renga. Ciao Roberto. Buongiorno a tutti. Ave Cesare. Sì, ragazzi, ma che Ave Cesare? A me sinceramente sino a due anni fa Prandelli era stato non bene, non andava bene, ma andava benissimo. Sì, fino a due anni fa. Poi dopo l'ho visto un po' cambiare, l'ho visto un po' cambiare anche come atteggiamenti, anche con il suo codice, e poi l'ho visto in una situazione drammatica ai mondiali. E sinceramente aveva trovato la squadra in occasione della prima partita e poi l'ha presa martellate. Io non so che cosa gli sia successo, non credo nemmeno che già l'avesse chiamato il Galatasaray, perché così sarebbe troppo. Sì, resta il fatto. No, io penso, e mi è stato raccontato, che ovviamente durante il periodo del mondiale assolutamente Prandelli aveva in testa l'Italia, e ci mancherebbe, ma che diciamo i contatti col Galatasaray non sono iniziati sulla scaletta dell'aereo il 25 giugno di ritorno di ritorno dal Brasile, ma c'era stato qualcosa prima. Resta però il dato che Prandelli scende dalla nave. Noi abbiamo fatto anche il paragone con Schettino, non l'abbiamo fatto noi, è un po' improprio. In realtà lo scrive ieri sulla prima pagina del Corriere della Sera Aldo Grasso, pur senza nominare Schettino, ma è assolutamente chiaro il parallelo che viene fatto. Resta però il dato di oggi, è che Prandelli scende dalla nave che affonda, che è il calcio italiano a tempo di record, lascia anche molte domande sospese, domande che magari sarebbe anche interessante chiarire per avere un punto di ripartenza. ma non c'è dubbio questo. Lo sai che non è il primo CT comunque che ci lascia così a mani vuote. Io mi ricordo Trapattoni dopo gli europei in Portogallo, fece la mattina la conferenza stampa di addio in diretta a TG1 e nel pomeriggio firmò per il Benfica, non ti fece nemmeno la valigia, rimase nello stesso albergo. Beh, perché queste comunque sono cose che capitano a loro, a noi con maggiore difficoltà. Ma certo che di domande io ne avrei moltissime, ne avresti anche tu. Perché ha disfatto quella squadra? Perché ha cambiato gioco? Perché è tornato di nuovo alla difesa 3 che l'aveva abbandonata 2 anni fa dopo che aveva pareggiato con la Spagna? E perché ha portato determinati giocatori? Perché ha portato solo 2 centravanti? E che tanto che poi alla fine non aveva nemmeno una riserva in occasione dell'ultima partita, perché non ha portato terzini sinistri? Sì, perché noi restiamo appesi lì a quelle dichiarazioni a Natal, dove abbiamo capito che si è assunto la responsabilità del progetto tecnico e che poi era colpa del clima cambiato intorno a lui, abbiamo capito che paga le tasse, che non ruba i soldi ai contribuenti. Sarebbe interessante poter approfondire qualcosa in più, ad esempio su cosa è stato sbagliato nella preparazione, se c'è stato qualche problema di gestione del gruppo. C'è chi ci scrive amorevolmente: siete dei cani, se ci si dimette si è vigliacchi, altrimenti no, vi meritate Alberto Sordi e i De Mita. No, dai, su, bravo ad essersi dimesso, anche se io credo che oggi 7 luglio non sarebbe più comunque il CT dell'Italia, anche con il contratto in mano. Tutti convocati. Max da Corbetta scrive: mi scuso in anticipo, ma un allenatore che dopo 4 anni di gestione fallisce così palesemente non deve avere la possibilità di allenare subito un altro club. Ma io non sono d'accordo nemmeno con questo. Poi secondo me ci sono questioni di opportunità. Poi l'Italia è il paese di chi lascia ma con le tasche piene. C'è chi ricorda che Lippi se n'è andato sui 2 piedi dopo il Sudafrica, però Lippi l'aveva già detto che il suo rapporto con la nazionale sarebbe finito lì. Poi Roberto da Belluno: Prandelli ha perso l'occasione di ridicolizzare Van Gaal nella partita con l'Uruguay, oltre a 6 terzini poteva anche inserire tutti e 3 i portieri. Questa è una critica tecnica e fa parte delle domande che sarebbe bello poter fare al CT. Roberto Renga, ma tu hai capito da dove si riparte, CT e non solo? No, è caduta la linea. Adesso proviamo a riattivare la linea con Roberto Renga, perché poi c'è anche questo grande tema, perché questo, insieme alle emozioni sportive, è stato anche il fine settimana in cui abbiamo visto un vertice al mare tra alcuni presidenti della Serie A per discutere anche del futuro della nostra federazione, e sappiamo che in altre stanze invece a Roma negli stessi minuti si stava discutendo della candidatura di Carlo Tavecchio, 71 anni, colui che a meno di miracoli, a meno di cambiamenti di scenario che in questo momento sono impensabili, il prossimo 11 agosto diventerà presidente della Federcalcio e poi dal giorno dopo sarà impegnato nella scelta del nuovo CT, che io rabbrividisco solo all'idea che sia alla fine un CT qualsiasi, purché costi poco. Una soluzione low cost, una soluzione pescata da una cantera federale che non esiste più e non esiste più da tempo. È tornato Roberto Renga? È tornato? Roberto, sì, tu hai capito da dove si riparte? Da dove si riparte? Io so da dove ripartirei io. Io ripartirei da una rifondazione totale del calcio italiano. Dopodiché qualunque CT, no, basta che insomma che se ne intenda, qualunque CT può andare bene. È chiaro che in federazione in questo momento non ce ne sono, perché l'unico che c'è è Gigi Di Biagio, che è ancora inesperto ovviamente, ha cominciato da 5 minuti con l'Under 21. Devi prendere qualcuno da fuori, però per esempio c'è chi viene sponsorizzato in queste ore in maniera eccessiva, come Allegri per esempio, perché il Milan vorrebbe portarlo a tutti i costi, no? Galliani che sta facendo una trattativa con Tavecchio: io ti porto la Lega di Serie B, però tu mi porti magari Allegri, eccetera. Io dico pensiamoci bene, ma dopo aver riflettuto sulla rinascita del calcio italiano, che passa attraverso una rifondazione totale. Io mi auguro sempre che anziché gli allenatori ci portino via i dirigenti. Prendete i nostri dirigenti in Turchia. Sì, cosa che i turchi ovviamente si guardano bene dal fare. Io però diffido da chi quando parla del prossimo CT torna a citare questa mitologica cantera federale, il centro tecnico di Coverciano, poi parla di Valcareggi, Berzot, Vicini, che sono stati evidentemente ottimi tecnici, hanno fatto pezzi di storia del calcio italiano, ma stiamo parlando del secolo scorso e non soltanto dal punto di vista cronologico. Io non credo ad esempio che un grande uomo come Berzot si troverebbe a suo agio ad esempio nel gestire una rosa fatta da prime donne, da fuoriclasse, da gente che gira con le cuffie in testa e che ha poco senso di appartenenza. E Berzot crebbe sotto Fulvio Bernardini, che era comunque uno estraneo alla federazione. Già allora, con Fulvio Bernardini si inaugurò una nuova strada. Quindi in effetti è vero, è tutto cambiato, è tutto profondamente cambiato, e comunque in questo momento non c'è nessun allenatore federale in grado di poter allenare la nazionale. Quindi bisognerà pescare fuori o Allegri sponsorizzato o Mancini se fa lo sconto. Zaccheroni crede ancora e ritiene di essere in fila per un posto da CT. Io credo se è in fila è in fila dopo gli altri due che abbiamo citato, però insomma va bene tutto, va bene anche pensare a Conte CT part time, visto che la situazione di caos in cui siamo in questo momento. Ma sai, Conte part time a me andrebbe bene, a te andrebbe bene, perché ovviamente conosciamo Conte e ci fidiamo di lui. Ma siamo in Italia, si convoca uno della Juventus e sono tutti gli anti-juventini che dicono: oh, vedi, deve lanciare un suo giocatore. Se non lo convoca, le stesse persone dicono: lo vuol far riposare in vista della partita di domenica. Sì, non siamo pronti. Noi siamo in Italia. Tra l'altro, esperimento non riuscito benissimo nemmeno in altre nazionali, sempre in Italia. Grazie, Roberto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie Roberto Renga. 800 24 00 24, c'è Claudio da Ravenna. Claudio. Salve. Salve. Ma io penso che il nostro commissario tecnico, ex, almeno, abbia dimostrato un problema di tenuta psicologica anche lui, perché man mano si avvicinava ai mondiali, per me ha perso un po' la bussola. L'aveva tenuta bene fino a un certo punto, poi dopo ha sbagliato le convocazioni, ha sbagliato a basarsi completamente su un ragazzo come Balotelli, che ha 3.000 limiti psicologici, che quindi non poteva reggere lui. Troppe debolezze da quel punto di vista lì. Poi son d'accordo con chi anche prima diceva che non si capiscono bene certe convocazioni, con dei buchi palesi nella rosa che si sono purtroppo dimostrati, vuoi infortuni, vuoi le altre cose, e così il risultato, chi semina vento raccoglie tempesta, il risultato è quello lì, ed è chiaro, ed è purtroppo pagato dalla nazionale italiana, e penso che lui, ma non so, sì, anche per questo sarebbe bello farsi spiegare che cosa esattamente non ha funzionato negli ultimi sei mesi. Come si fa a trovare una squadra in un giorno, cinque giorni o sei giorni, aveva già contratto così? A uno verrebbe anche da pensare male che qualche contattino l'avesse fatto anche prima. Qualcuno più che pensarlo lo sta anche scrivendo e lo sta argomentando. Fausto da Treviso, Fausto. Sì, buongiorno. Fausto da Treviso. Niente, io guardi, ho chiamato giovedì e avevo fatto fatalità il paragone a Prandelli con Schettino. Sì. E poi è dato in fondo un servizio per Mediaset, fatalità, abbinando due persone nello stesso momento, quasi avessi avuto una cosa da indovino. Niente, io volevo sapere, cioè, perché Prandelli ha avuto, cioè tutti hanno incensato, hanno detto una brava persona, un signore, si è dimesso, bla bla bla bla bla bla, bla, e poi alla fine si è comportato come uno che ha abbandonato la nave. Con dovuto rispetto ovviamente al disastro che è successo lì, all'isola, eccetera, eccetera. Sì, per questo il paragone è assolutamente improprio. Sì. Però resta questo senso di fuga che è difficile cancellare, Fausto. E io credo sarà difficile cancellare a prescindere anche in futuro, quando si ripenserà agli eventi che ci hanno portato fuori da questo mondiale. Poi c'è chi scrive: serve un CT momenti tipo Milutinovic, cioè uno coraggioso che mandi tutti a quel paese. C'è anche il nostro Pierluigi Pardo, ad esempio, che arriva dopo le 15. C'è chi dice che è arrivato il momento per l'Italia, per la prima volta nella sua storia, di scegliere un commissario tecnico straniero. Anche questa potrebbe essere una strada. Andiamo avanti a parlarne, però. 800 24 00 24. Sta arrivando Pierluigi Pardo. Adesso Bet Corner. Quote e pronostici. Al Tour de France oggi è tempo di terza tappa e dopo 5 anni in maglia gialla c'è un italiano, è Vincenzo Nibali, che ieri ha staccato tutti al traguardo di Sheffield, prendendosi la prima vittoria alla Grand Boucle e con essa anche la maglia. Si parte da Cambridge e si arriva a Londra, 155 km, l'ultima tappa in terra britannica, tappa facile e adatta ai velocisti come indicano le quote SNAI. Per la tappa di oggi il favorito è Marcel Kitt, quotato 1,55, Peter Sagan è quotato 12, Gripel è quotato 4,50, la vittoria degli italiani Petacchi quotato 50, Elia Viviani è quotato 75. Per la vittoria finale del Tour de France il favorito resta Christoph Froome, che ieri ha dovuto inchinarsi a Nibali, quotato 1,95, Contador è quotato 3, Nibali è quotato 7, Valverde 25, Talansky 40. Domani intanto semifinali al mondiale brasiliano, si può già indovinare il nome del vincitore. Secondo SNAI la favorita è l'Argentina ed è quotato 3,30, Germania e Brasile sono quotate 3,60, la vittoria dell'Olanda invece è quotata 4,50. Questa era l'ultima delle quote di oggi, a risentirci a domani. Convocati. Aprovechamos que usted está aquí. La salsa choque. Y el. Ese se llama el. Ay, ¿cómo se llama la canción? Rastastas. Rodriguez è meglio come numero 10 che come cantante. Ballerino no, se la cava bene. Pierluigi, buongiorno, come va? Come te la cavi con la Rastastas, che è il ballo quello colombiano che abbiamo sentito? Bene, io ho un gioco di bacino invidiabile, come tu ben sai, e quindi me la cavo bene. Io non so se hai visto le immagini della festa colombiana ieri, a parte straordinario, centinaia di migliaia di persone a Bogotà per festeggiare la nazionale eliminata dal mondiale. Non male come ballerini, i colombiani. Beh, ma insomma, il popolo di Shakira, non so se ti ricordi quel movimento di Shakira nel video, me lo fa chi in Barranquilla se baila, sì, una roba del genere, che insomma direi che intere generazioni di maschi di tutto il mondo, diciamo, hanno perso dei minuti della loro vita nello studiare quel movimento in tutte le sue prerogative. Quindi, inutilmente, insomma, grande classe. Inutilmente, cioè, tutto inutile. Sì, perché poi ci vuole il fisico, ci vuole il sangue, ci vuole tutte cose che noi non abbiamo, a partire dal fisico. Però ognuno poi più o meno trova parità, capito? Cioè non è che soltanto se sei un ballerino colombiano, cioè poi alla fine trovi la tua dimensione, quindi. Vabbè, ma di che stiamo parlando? No, grande mondiale. Sì, grande, anche se oggi giornata di passaggio, io l'ho definita la terra di mezzo tra quello che è stato di un fine settimana di grandissime emozioni anche per il mondiale. Poi abbiamo raccontato il resto, Tour, Wimbledon, Formula 1. Ho scoperto quello che sarà. Tra l'altro che in questo weekend che esiste ancora la Formula 1, ho scoperto questa cosa. Mi era sfuggita, esiste ancora, lo fanno ancora. Ma qualcuno se l'è filata in Brasile la Formula 1? Ma mi pare abbastanza secondario, visto che c'era ieri comunque, insomma, se uno doveva scegliere un avvenimento sportivo extra calcio, era Federer Djokovic, credo, senza alcun dubbio. È stata una delle visto, è rimasto terza, quarta. Sì. lui ha chiamato la terza e gli ha buttato. Ecco qua il problema. Il problema è che appunto non riesce a inserire più la terza, adesso sembra quasi che sia bloccato. E quindi ha dovuto fare la curva in quarta, ha provato a salire con le mani. E quindi Hamilton adesso è davanti e adesso è rimasto bloccato in sesta. Sì, il cambio non risponde più. E quindi per Nico Rosberg si paventa il ritiro. Basta. Spento il motore. Sì, spento il motore. È in ritiro. Oh, quindi i brasiliani se ne sono fatti una ragione del ritiro di Rosberg. Sì, sì, sì, sì. Beh, insomma, stamattina nei bar non si parla d'altro, ovviamente, cioè, c'è profonda depressione, insomma, l'ambasciata finlandese in segno di lutto. Quindi si è ritirato Rosberg e si è riaperto il mondiale, ho letto. Perché sì, si è riaperto il mondiale, però è tedesco, Rosberg, ti do questa notizia in anteprima. È tedesco, quindi se non hai trovato nessuno davanti all'ambasciata finlandese è perché erano tutti da un'altra parte. È tedesco. All'ambasciata tedesca. Ma sai quando dici finlandese e pensi tedesco? Guarda, è incredibile la vita delle volte. Ma è che io purtroppo c'ho il problema, sono multitasking e quindi adesso stiamo cercando l'imbarco del volo, dopo aver parcheggiato. Cioè sono in questi primi 5 minuti di telefono, già sono successe delle cose abbastanza importanti. Ma andiamo avanti, passiamo alla Serie A. No, passiamo all'attualità del mondiale. Io voglio sapere da te, ad esempio, se davvero quelli che hai intorno, che presumo siano tutti brasiliani, ci credono a questa favola che Neymar possa rientrare per un eventuale finale, perché oggi questo si scrive anche che i medici gli hanno detto tu sei matto, non se ne parla per sei settimane. Però insomma non credo che ci sarà una possibilità, insomma tutti quelli che abbiamo sentito, il professor Volpi, che abbiamo intervistato a Sport Media, tutti gli specialisti di tutti i paesi del mondo dicono che è un infortunio assolutamente risolvibile per quanto riguarda la carriera del giocatore, alla fine non è neanche un infortunio così grave e così lungo, perché insomma 60 giorni sono un tempo medio, c'è pure chi si fa male purtroppo per un periodo molto più lungo, se ti rompi un crociato molto banalmente puoi stare più tempo fuori, però insomma è un infortunio col quale non si scherza. Sì, pensare di recuperare per una ipotetica finale di domenica prossima sarebbe un po' passare dalla tragedia che abbiamo vissuto e anche raccontato sabato di una nazione che si è fermata per l'infortunio di Neymar a qualcosa di soprannaturale. Mi interessa anche capire, Pierre, se in Brasile si discute del destino di questa persona qui, che è diventata protagonista, l'infermiera dell'ospedale di Fortaleza. Perché c'è questa storia, Pierre, io immagino tu la conosca perché ci saranno paginate e paginate sui giornali brasiliani, cioè l'infermiera che ha fatto quel filmino della barella che entrava, la barella con su Neymar che entrava nell'ospedale, è stata licenziata perché poi finiva il filmino facendo il gesto della vittoria. Forse era Argentina, non lo so. Ma sì, o forse invece era un messaggio vinciamo uguale anche senza di lui. È stata licenziata, insomma, questo fa capire... posso anche capire che ci siano degli elementi, se vuoi, di oggettivi per cui un comportamento del genere, per un discorso di privacy ovviamente, per un discorso di rispetto per un giocatore che in questo momento sta male, insomma, il licenziamento è sempre una cosa brutta, è sempre una cosa estrema, quindi qui ci vorrebbe un avvocato di diritto del lavoro più che un giornalista sportivo. Io posso solo dire che chiaramente i video, le foto rendono tutti i reporter, rendono tutti i protagonisti, giustamente, quindi non avrà resistito alla tentazione di fare un film e di metterlo sui social network. Sì, comunque noi ti incarichiamo di parlare con Neymar e di dirgli di fare il bel gesto che ha fatto anche Dani Alves dopo la vicenda della banana, dicendo vabbè adesso però restituite il lavoro a quei poveracci e chiudiamola qui. Ti faccio sentire un altro mito di questo fine settimana, poi ci sono Angelo da Milano, Vito da Pesaro, Andrea da Udine, 800 24 00 24, vogliamo anche sapere che cosa ne pensate, i vostri pronostici per queste semifinali. Un altro mito di questo fine settimana. Brasil, ganale a Alemania, te lo ruego, Brasil. mio mito, eh? Alejandro Fantino, Radio La Red Argentina, non è l'unico argentino che prega, implora il Brasile di battere la Germania perché vuole arrivare a quella finale lì, quella del Maracanã, Brasile contro Argentina. Io fossi un brasiliano non dormirei, l'ho detto anche ieri, non ci dormirei su questa cosa. Sì, ci sono due scuole di pensiero, insomma, c'è quella di Ronaldo, per esempio, che ha detto di sognare una finale Brasile-Argentina. Io ho fatto un po' di Vox Populi, quindi un po' di interviste ai tifosi. Ma quando mai? Sono divisi. Ma quando mai? Sì, però almeno a parole molti si dicono sì, vogliamo batterli. Chiedi ai tifosi dicono della Juve, che a Manchester hanno perso la finale contro il Milan nel 2003, quanto pesa più aver perso la finale contro il nemico storico di una qualunque altra beffa, che sarebbe comunque dolorosa, però ho l'impressione che sarebbe una finale con un peso schiacciante sulle spalle dei brasiliani. Sì, beh, sicuramente, anche perché l'ansia della prestazione sarebbe tutta loro, mentre gli argentini sono certamente quelli che arrivano qui con il ruolo di rovinare la festa, e quindi credo veramente che sarebbe complicato, insomma, sarebbe molto più forte la pressione per i brasiliani che per gli argentini, insomma, al di là di quelle che sono le caratteristiche tecniche delle due squadre. Quindi sono d'accordo con te, la vedo complessa, la vedo rischiosa, la vedo pericolosa, insomma, questo tipo di soluzione. Però c'è anche la suggestione. Diciamo, per noi che siamo degli spettatori neutrali, Brasile-Argentina forse è la finale migliore, anche se sono tutte belle, perché pure Germania-Olanda, la gran finale, Germania-Argentina e Brasile-Olanda, sono quattro partite perfette. Brasile-Olanda è quella che ha meno precedenti storici delle quattro, nel senso che non si è mai vista in una finale mondiale, neanche Brasile-Argentina non si è mai vista in una finale mondiale, ma si è vista mille volte, c'è una rivalità pazzesca, quindi comunque andiamo alla grande, dai, non vedo rischi da questo punto di vista. È tra l'altro la prima volta che Brasile e Argentina arrivano insieme contemporaneamente alla semifinale di un mondiale. 800 24 00 24, Angelo da Milano. Angelo, sì, ciao, buon pomeriggio. Volevo dire una cosa riguardo del tecnico della nazionale. Sì. Sento che nessuno parla, non so se ancora Claudio Gentile è stato un allenatore, campione del mondo, ha portato la nazionale Under 21 ad alti livelli, gli è stata tolta di mano l'Under 21 per darla a Casiraghi, e al momento che doveva passare a lui la nazionale A è stato scelto qualcun altro, sempre per motivi politici calcistici. Dopo Claudio si è ritirato, io non sono un amico di Claudio, ci devo a precisare, però devo dire che aveva fatto un bel lavoro, aveva portato tanti giovani che poi hanno vinto il mondiale del 2006 a un buon livello nella nazionale Under 21. Sì, però è stato, hai ragione Angelo, non sei un amico, probabilmente sei il procuratore di Gentile, io almeno no. Ho questo dubbio, Pierre. Tutto bello, tutto giusto, però mi sembra che sia fuori da qualche anno, da tutti i giri, e credo che non ci si inventi poi figura di commissario tecnico dell'Italia, Pierre. No, non ci si inventa, ma guarda, la cosa è serissima, l'argomento è serissimo, stiamo sempre parlando di calcio, per carità. Però io ti dico che la vedo abbastanza semplice da inquadrare. Serve un grande allenatore, serve un commissario tecnico di altissimo livello, punto. Siamo una grande nazionale, serve un commissario tecnico di altissimo livello. Non possiamo metterci a fare gli esperimenti, lo dico con rispetto per queste figure, per queste professionalità. Non c'è da discutere, secondo me, non c'è proprio nulla sul quale si possa. È chiaro che tutti questi allenatori federali che sono cresciuti, eccetera, hanno pienamente il diritto di crescere e di continuare, ma oggi serve una soluzione pronta, non serve una soluzione per il futuro. Non possiamo, oltre a dover aspettare la squadra, aspettare anche l'allenatore. Lo dico con tutto rispetto, poi magari Gentile o Caprini o Di Biagio sono allenatori eccezionali, io gli faccio i migliori auguri, grande in bocca al lupo possibile, però oggi mi sembra che la sostanza è quella che il calcio, i commissari tecnici non sono più quelli federali di vent'anni fa che vivevano a Coverciano, oggi sono allenatori. Sì, che è una figura diversa. È anche difficile, Pier, che sia una figura a basso costo, visto che si discute anche dell'ingaggio del futuro CT. È difficile che il CT di una nazionale importante come l'Italia debba essere per forza un CT low cost, senza pagarli come viene pagato, ad esempio, Capello dalla Russia, però evidentemente. evidentemente bisogna andare sul mercato per cercarlo. Bisogna andare sul mercato, bisogna andare sul mercato. Certo, non si può pensare di, secondo me, poi per carità, ripeto, la controprova manca, perché magari, cioè io so benissimo che per esempio Caprini è bravissimo, Gentile ha dimostrato grandi cose, Di Biagio sta facendo bene, cioè sono tutte figure che stanno emergendo, che stanno crescendo, però insomma la Nazionale A è equiparabile a un grandissimo club, la pressione che tu vivi è equiparabile a quella di un grandissimo club, non è che c'è molto altro da... Sì, bisogna essere preparati anche da questo punto di vista. Vito da Pesaro, Vito. Pronto? Ciao. Buongiorno, ciao. Buongiorno Capano, buongiorno Chico Pardo. Buongiorno Vito. Ciao. Volevo una vostra opinione su quello che brevemente vi starò per dire. Io ho visto un mondiale complessivamente mediocre, squadre brutte che hanno giocato sostanzialmente la stragrande maggioranza abbastanza male, molto difensivista, alcune che non ci si aspettava, e arbitri disastrosi che stavano bene ad arbitrare partite di rugby, molti faziosi anche, per cui tenevano da certe squadre e non da altre. E poi la ciliegina sulla torta, volevo parlare 30 secondi di Neymar. Sì. Se voi, nessuno, io ho sentito mille opinionisti, nessuno ha fatto notare che in quella partita, al di là del fallaccio da espulsione che ha subito, in quella partita Neymar ogni volta che lo sfioravano era di un'isteria verso l'arbitro, nessuno l'ha fatto notare, di un'isteria che è insopportabile. Sì, forse perché non era una novità, Pier. Lo stesso questo qui appena poi chiudo. Lo stesso Scolari era una furia. Sì, come ma poi dire, ne parliamo, poi ne parliamo, perché è nato il Brasile 2.0 anche sulle ceneri dell'infortunio a Neymar. Poi raccontiamo, parliamo anche di Rodriguez Moreno dopo. Però io credo che probabilmente nessuno ne ha parlato, Pier, perché non è una novità per Neymar. È un giocatore così che cade, che protesta, che ha un gioco particolare. No, ma sicuramente Neymar e tutto il Brasile ha vissuto un'ansia alla prestazione che non ha uguali, e quindi questo può aver portato, io sono d'accordo sul fatto che sicuramente Neymar è stato molto nervoso, non sono d'accordo sul resto, a me non sembra un mondiale pieno di squadre difensive, non mi sembra un mondiale pieno di errori arbitrali, sono riusciti, e su questo potremmo aprire un file, a premiare l'arbitro che ha fatto il pasticcio di Italia-Uruguay. È un pasticcio enorme, perché poi noi ci siamo fatti mille volte giustamente il processo, siamo andati a Mangaratiba, adesso parlano tutti, parlano i direttori d'albergo, facciamo tutti, possono spargere fango su questa squadra che merita fango sicuramente, perché insomma ha fatto male, questo non ci sono discussioni, però insomma non dimentichiamoci che in quella partita lì, con un arbitraggio normale, al 99% passavamo il turno, perché non è che l'Uruguay avesse proprio questa impressione di doverla vincere a tutti i costi, e 11 contro 11 secondo me la portavamo a casa, o anche 10 contro 10 se fosse stato il punto Suarez. Sì, ma credo che la designazione di Moreno, Rodriguez Moreno, sia il primo effetto del Brasile 2.0, quello che ha presentato, anzi se ci sono novità raccontacele, ha presentato anche un ricorso con zero possibilità di essere accolto per cancellare la squalifica di Thiago Silva, però mossa politica per mettere pressione sulla federazione, mossa che, ripeto, secondo me ha dato il primo effetto con la designazione di un arbitro che probabilmente in questo momento in Brasile non dovrebbe più esserci, e che invece si fa una semifinale. Pier, lo chiediamo anche... sarebbe molto grave. Sì, sarebbe però sarebbe molto anche molto la storia dei mondiali, perché non sarebbe la prima volta che capita. Capito. Lo chiediamo anche all'espertissimo Marco Ansaldo. Ciao Marco. Ciao, Marco. È effetto delle pressioni che direttamente o indirettamente sta facendo il Brasile sulla FIFA. Scolari vuole accreditare un Brasile che ha contro tutti, questa designazione in qualche modo è il primo effetto concreto? Ma staremo a vedere, perché poi alla fine sai, si crea sempre molto, molto allarme, poi di solito poi un arbitro che viene messo nel mirino fa molta attenzione come arbitra. Tieni conto che tra l'altro non è che il Brasile gioca contro il Costa Rica, gioca contro la Germania, che è un filino potente anche da un punto di vista politico, e soprattutto nel momento in cui Blatter deve cercare di arrivare a una nuova presidenza, per cui se fosse contro una squadra che rappresenta una federazione molto meno importante potrei pensare anche a questo. Essendoci la Germania di mezzo, io non credo che farà molta. È che è un arbitro scarso, questo sì, ecco, il problema vero è che non si capisce perché è un arbitro scarso debba diventare una semifinale che secondo me è come fosse la finale del mondiale. Tu l'hai capito, Pier? Io sono perfettamente d'accordo, cioè non posso pensare a questa, non posso cadere in questa dietrologia, oltretutto perché appunto Brasile e Germania è la sfida fra due grandissime. Ora è chiaro che il Brasile giocando in casa in questo momento forse ha ancora più peso, no? Dal punto di vista di rapporti con la FIFA rispetto alla Germania, ma stiamo parlando di due grandissime, per cui ci vuole un arbitro. È questo che mi fa impazzire, perché ci vuole un arbitro che abbia dimostrato che è in condizione. Io non è che io non sono dietrologo, lo sai, nella vita dei complotti, un concetto che proprio mi sfugge, però questo è un arbitro che ha fatto dei casini mostruosi. Ha fatto dei casini mostruosi in una partita importante del mondiale, perché poi ormai qua nessuno si ricorda l'Italia giustamente, però insomma l'Italia-Uruguay è stata una partita decisiva, non è stata una partita ininfluente, è stata una partita che ha determinato il passaggio del turno dell'Uruguay e il nostro andarcene a casa. Insomma, l'idea che quest'arbitro qui venga premiato con una semifinale mondiale, cioè proprio non capisco il motivo, non voglio pensare male, non riesco a pensare male, non faccio fatica a fare 2+2 a cadere nella dietrologia, ma mi sembra comunque sì, lascia un po' di perplessità, un comunque errore clamoroso, lascia delle perplessità. Questo, sì, se esiste una meritocrazia, Rodriguez Moreno a quest'ora era tornato a casa in 5 secondi in un mondiale tutto sommato dal punto di vista arbitrale non drammatico, perché insomma, cioè, mi ricordo Germania e Inghilterra col pallone dentro, sì, abbiamo metro. Visto di peggio, Marco, abbiamo visto di peggio, per cui possiamo accontentarci. Occhi aperti domani, occhi aperti. Per chiudere il discorso con una battuta, bisognerebbe cancellare dai mondiali tutti gli arbitri che hanno Moreno nel cognome. Esatto. Chi sta meglio tra le quattro, Marco? Chi sta meglio? Secondo me la Germania, la vedo veramente una squadra che non mi entusiasma come 4 anni fa, quando aveva tutti praticamente gli stessi giocatori ma più giovani e avevano una freschezza straordinaria, ricordo con l'Inghilterra, con l'Argentina, cioè. Questa è una squadra comunque che mantiene una grande solidità anche mentale, mentre il Brasile l'ho visto ad esempio contro la Colombia, quando la Colombia poi nel finale si è riavvicinata, sul Brasile è calata la paura proprio, cioè sono giocatori che giocano con la paura addosso di fallire. La Germania questa paura non ce l'ha e in più ha degli ottimi giocatori perché sono collaudati, sono forti, sono per me sono la miglior squadra del mondiale. Anche se l'infortunio di Neymar finisce per essere un meraviglioso assist per Scolari, perché comunque vada da domani potrà dire che è colpa di Zuniga. Anche la squalifica di Thiago Silva. Anche la squalifica di Thiago Silva. Mourinho che non mi sembra l'ultimo dei. Aspetta che abbiamo perso la linea con Marco Ansaldo. Pier. Guarda, sono davanti a un campione del mondo del 2006 che però per problemi di esclusiva non può parlare. Vi dico che è uno dei più belli, insomma, diciamo, no, dal punto di vista estetico ancora oggi è sex symbol. Fa la sua figura, dice che fa la sua figura. Chi vince il mondiale? Non dico chi sei. Chi vince il mondiale? Argentina. Dice Argentina perché dice l'Argentina. Sì, perché lui tra l'altro è di una città, adesso io do soltanto questo piccolo indizio, di una città nella quale ha giocato Maradona, però è difficile ancora capire chi è. Poi è anche quello che fisicamente ha alzato la coppa, cioè, è stato il primo a toccare la coppa. Allora noi per mischiare le carte diciamo che l'hanno alzata in 23 e quindi, per primo... Ma chi sarà? Dice che sta bene, Dice che sta bene, dice che hai detto? Che sta in forma? Tu sei abbronzato, dimagrito, bella vita. No. Dimagrito no, dice. Ma per caso è quello che ha detto che Van Gaal ha fatto un errore a cambiare il portiere al 120esimo? Ma Van Gaal ha fatto un errore, no, vabbè, il portiere, no. Mega un errore, gli è andata pure bene. Ha avuto gli attributi, dice che ha avuto gli attributi. Salutalo allora, Noi non diciamo chi saluti, è. Così si saluta tutta Radio 24, Si saluta tutta Radio 24. Sì, così non evitiamo problemi. No, non lo sappiamo chi è, non lo sappiamo. Anzi, ma lavora. 349-238-6666. Possiamo anche aprire adesso un concorso. Gli ho chiesto, vuoi fare il CT? E mi ha detto perché evidentemente qua ogni parola, però cioè, ci sperano tutti. Quindi un po' sì, un po' no. Un po' sì, un po' no. No, non attribuiamo, non ha detto niente. Non ha detto niente. Commenta. Non ha detto niente. Chi è che non vuole fare il CT? Lo farei pure io il CT, ma non sono capace. Quindi, chiedigli se va a Madrid con Ancelotti. Ecco, vorresti andare a Madrid con Ancelotti? Mm. No, come prima, no comment. Facciamo le foto. È in grande forma, lo salutiamo, lo abbracciamo. Vai a San Paolo, quindi? Sì, va a San Paolo. Va a San Paolo, che non è San Paolo di Napoli, ma è San Paolo di Brasile. Personaggio misterioso. 349. Stiamo parlando di Zaccardo. Sì, Zaccardo, no, ovviamente. Zaccardo o Barone, uno dei due. O Zaccardo o Barone. 349-238-6666. Chi era il personaggio misterioso incrociato da Pierluigi Pardo all'aeroporto di Rio? Sì, all'aeroporto di Rio de Janeiro in partenza per San Paolo. 800 24 00 24. Marco Ansaldo c'è? L'abbiamo recuperato, Marco? Eccoci, che era caduta la linea. No, per chiudere il discorso invece sulla pressione del Brasile, che viene comunque in parte meno per i vari infortuni, e questo può essere un vantaggio. Sicuramente, torno a dire, forse mi è poi caduto il collegamento, stavo dicendo che Mourinho, che appunto non è l'ultimo dei Pirla, sostiene che l'assenza di Thiago Silva sia più grave ancora di quella di Neymar per il Brasile, e in qualche modo può avere ragione, perché pensare alla coppia, cioè pensare ad Angi in mezzo a quella difesa lì non mi rassicura molto. E anche quello che è il sostituto di Neymar, mi sembra che sia ancora un po' fumosa la strategia, la scelta. Vedo un Brasile che arriva a questa partita con molti dubbi da risolvere. Sì, compresa la condizione fisica di Willian, che non è al 100%. È stata per me la delusione del Brasile in questo mondiale, perché dopo averlo visto nello Shakhtar contro la Juventus nella stagione scorsa, veramente non riesco a riconoscere il giocatore che ho visto giocare in qualche spezzone della partita col Brasile. Grazie Marco. Ok, ciao. Tutti convocati. Brazil needs him because he's that individual player that win one against one and provocate and balance situations for the opponent, score a goal. He's fantastic also in the service for the set pieces. But I would say that probably Thiago Silva in this moment is so more important than Neymar in the team. E questo è colui che non è l'ultimo dei Pirla e che spiega perché l'assenza di Neymar è pesante, carissimo per Luigi Pardo, ma quella di Thiago Silva può pesare ancora di più per il Brasile. Pier, ti faccio un riassunto dei tanti messaggi che ci stanno arrivando. 349-238-6666, siete i soliti piagnoni, l'Italia non è uscita per colpa di Moreno, c'era anche un rigore netto di Chiellini, hanno ragione tutti, semplicemente è un arbitro che ha sbagliato, ha arbitrato male una partita importante, fondamentale di questo mondiale. Non si capisce perché non sia a casa sua, Città del Messico, il Chiqui Dracula, ma sia in viaggio verso Belo Horizonte, verso Belo Horizonte per fare Brasile-Germania. Eccoci. Pier. Sì, no, ti dicevo che sicuramente hanno ragione tutti, nel senso che comunque non ci sono discussioni sul fatto che sia stato una... Noi ci abbiamo messo del nostro, e secondo me è molto sano che ci possa essere un ragionamento di questo tipo, cioè che la nazionale sia stata processata, tra virgolette, perché è molto brutto quando si scaricano le colpe su fattori esterni tipo l'arbitro, è una forma di... Sì, è una forma di debolezza anche quella che in parte ha percorso anche Prandelli nel quel poco di bilancio che ha fatto dopo l'eliminazione mondiale, scaricando molto sulle scelte di Rodriguez Moreno nella partita contro l'Uruguay. 800 24 00 24, è caduto Pierluigi Pardo, strano, mai capitato in questo mese di mondiale, però cerchiamo di riagganciarlo. Giuseppe da Bergamo, Giuseppe. Pronto? Ciao, buongiorno. Giuseppe. Due domande me le avete già bruciate voi, sì, con l'arbitro. E allora facciamone altre due. Ecco, una considerazione: in Italia, partendo dalla Serie D, per giocare a calcio ci vuole il settore ospiti, il settore dei casalinghi. Cioè, in Italia, quando si vede uno stadio, ce n'è mezzo vuoto da una parte, mezzo vuoto dall'altro, per tenere la distanza. In Brasile vedo che tutti i tifosi sono mischiati, si godono le partite. Ma è un difetto proprio degli italiani questo? No, non è un difetto degli italiani, perché i settori separati ci sono in tanti altri campionati. Non parliamo del Brasile, dove quando poi si gioca nel campionato il livello di violenza sugli spalti è assolutamente superiore rispetto a quello italiano. Però capita un po' così in tutte le grandi manifestazioni. È così anche la finale della Champions, che finisce per essere una festa con poche tensioni dal punto di vista dell'ordine pubblico. Pierre, sono grandi feste organizzate bene dal punto di vista dell'ordine pubblico, e quindi poi capita che si vada allo stadio mischiati. Sì, sì, è proprio il calcio nella sua accezione più sana, più serena. Io non so poi se c'è un discorso anche di approvvigionamento di biglietti che è fatto con dei criteri diversi, per cui non c'è la tifoseria organizzata. Qualche anno fa, vi ricorderete, negli anni 80 c'erano gli hooligans anche sulla nazionale inglese. Qui mi sembra che l'unica tifoseria in qualche modo strutturata che può creare problemi, con un capo curva che è stato arrestato l'altro giorno, è quella argentina. Per il resto, insomma, noi italiani eravamo quattro gatti, di famiglie, gente che andava in vacanza in Brasile, con l'occasione, gente italiana che vive in Brasile, che chiaramente è venuta a vedersi in nazionale. Cioè, è una composizione del pubblico completamente diversa rispetto alla realtà del campionato della Champions. Sì, e poi sono contesti completamente diversi, perché poi quando tu ti porti decine di migliaia di persone per un mese in casa, gestire i 90 minuti della partita è forse l'aspetto più semplice. C'è tutto il resto, logistico, di spostamenti, di condivisione di spazi anche al di fuori degli stadi. Basti pensare a quella meravigliosa spiaggia di Copacabana, che cosa è diventata in questo mese del mondiale. Andrea da Udine, scusa, però Pier. Ipanema è un'altra cosa. Io ormai sono carioca, ti dico Ipanema non sentiamo. E poi ci farai Ipanema la classifica delle spiagge. Ci farai la classifica barra, delle spiagge dopo. Barra. Molto buono, barra. Senti, ciucca. Andrea da Udine. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Complimenti al conduttore. Sì, scusate, grazie. Io l'emozione è la prima volta io che vi parlo. Sono uno che gioca a calcio da 40 anni, ne ho 52, ho avuto le mie ossa spaccate. E comunque volevo dirvi anche, approfitto per prima di entrare in argomento, fare un complimento. Sono un fan affezionatissimo del signor Pardo, che per me è così fantasioso, determinato, comicissimo. Io faccio un sacco di risate per le sue considerazioni tecniche e anche le sue previsioni. Ne becca una su 20, no? E per cui non faccio delle matte risate, mi diverto moltissimo. Guarda, veramente, adesso voglio parlare di Prandelli. No, allora, no, facciamo così. Allora, facciamo così, sì. Visto che lei è un fan di Pierluigi Pardo, sì, adesso sì. Lei chiede a Pierluigi Pardo una previsione e io sono sicuro che Pierluigi Pardo la azzecca. E poi lunedì prossimo la chiamiamo. Dai, Andrea da Udine versus Pierluigi Pardo da Rio de Janeiro. No, ma io devo già dire che fino all'altro giorno, poverino, mi lasci dire che era un accesissimo sostenitore di Balotelli, trascinatore dell'Italia fino in finale assieme al signor Genta, e allora non mi faccia insomma essere eccessivamente versus Pardo, che ripeto. No, ma lei deve chiedere un pronostico, perché Pardo invece i pronostici li prende e c'è una classifica che lo testimonia, vero Pier? Sì, anche se ormai no, allora devo dire che già una previsione su 20 è una stima in eccesso, quindi io lo ringrazio. Una su 20, magari è beccata una su 20, già farei un passo avanti. Io volevo dirle una cosa su Prandelli. Da me è chiamato il maestrino presuntuoso, no? Perché voleva registrare due teste come quelle di Balotelli, addirittura era al piano di Prandelli, no? Balotelli e Cassano, che neanche Crepè, cioè i suoi colleghi, mai si sognerebbero di prendere in esame, di poter riuscire a registrare, perché l'ha detto chiaramente Crepè, dice: non auguro a nessuno, dice, di poter prendere una persona frustrata per l'infanzia, eccetera, disastrosa, come Balotelli e Cassano, no? Uno portato via dal proprio paese. Sì, però possiamo passare anche sopra i pareri, secondo me, degli psicologi da salotto televisivo. Secondo me quello è stato un progetto tecnico che è fallito, che è poi l'unica cosa che siamo riusciti a capire tra le spiegazioni di Prandelli, Pier, sul perché non sia andata bene in Brasile. Sì, beh, sicuramente quei due hanno avuto un peso, soprattutto Balotelli, lo dico perché Balotelli giocava sempre titolare, Cassano no, e quindi proprio anche da un punto di vista, poi per me sono anche diversi, insomma, io quella che è la mia esperienza, sono due caratteristiche, sono due tipi difficili, diciamo, tra virgolette, non facilmente inquadrabili, ma sicuramente diversi, insomma. Che vi devo dire? Io penso che lì sia stato un fallimento complessivo in queste situazioni qui, e anche un fallimento quello di un allenatore che crede in questi giocatori ma non riesce poi a tirarne fuori il meglio. E poi nessuno di noi sa veramente le responsabilità all'interno del gruppo. Io credo che alla fine tante cose si combinino. Io non sono di quelli che si è arrabbiato con Buffon dopo quella sua uscita, perché penso che sia stata un'uscita di getto. E se noi giornalisti vogliamo cose non banali e non diplomatiche, poi se uno dà una volta una risposta così, non è che sì, dobbiamo anche ascoltarla e registrarla, col dovuto rispetto. Però credo anche che in una situazione del genere ci esistano le scale di grigio, cioè sicuramente le responsabilità sono di tutti, in misure diverse, ma sono di tutti, insomma, dell'allenatore che ha voluto e ha disegnato questa squadra negli ultimi mesi si è incartato, dei giovani, di Balotelli che doveva fare la differenza e non l'ha fatta, anche però magari della vecchia guardia, perché cioè, non lo so, non eravamo là dentro, le certezze non le abbiamo adesso, appunto. Un giorno qualcuno ce lo racconterà, si spera, che qualcuno che non sia il gestore del Portobello Resort di Mangaraciba. Che voglio dire, siccome poi è stato intervistato anche da Mediaset, è chiaramente uno spunto giornalistico, lo dico perché poi torniamo sempre a quella famosa frase che c'è su Twitter, che è retweet is not endorsement, cioè portare un'opinione soggettiva di una persona presente su un posto, di un testimone degli eventi, non vuol dire essere dalla sua parte, sì, farla propria, contro le persone che lui sta attaccando. È chiaro che è un punto di vista di parte, per il quale potrebbe addirittura rispondere da un punto di vista legale qualora qualcuno lo querelasse su delle cose che può aver detto, no? E il giornalista fa questo tipo di lavoro, è inutile dire che se qualcuno della nazionale volesse parlare, volesse raccontare la sua esperienza, sicuramente poi nel tempo, quando la ferita sarà meno fresca, capiterà. Questo succederà, insomma, siamo credo tutti a disposizione, tutte le testate d'Italia, quindi sì, sarebbe bello lo facesse anche quello là che adesso è su un aereo e che è le 18 a terra di Istanbul, quello là che è smontato in tutta fretta dalla nave del calcio italiano che stava affondando, quello là, sicuramente quello là. ci deve spiegazioni, quello là però è anche uno che si è dimesso, io ribadisco che è una cosa rara, e quindi questa cosa rimane perché se per qualche motivo fosse saltata la trattativa con Galatasaray, che probabilmente già c'era, se per qualche motivo fosse saltata, e sappiamo che il mercato è mutevole, e adesso Prandelli stava col cerino in mano, lui intanto ai soldi ha rinunciato, poi che fosse un assurdo rinnovargli il contratto prima del mondiale, su questo posso essere d'accordo, perché è chiaro che il mondiale e l'europeo a livello di competizioni nazionali sono talmente importanti che prima della competizione tu non sai come andrà a finire, quindi non sai se ci saranno poi i presupposti per poter continuare, quindi era assurdo rinnovargli il contratto prima, ma secondo me rimane il bel gesto di essersi rimesso 10 minuti dopo il fischio finale. E secondo me rimane che siamo qui in attesa di spiegazioni. Pier, ti faccio fare un pronostico che azzecchi sicuramente. Domani, dopo il GR delle 14, sei qui? Domani, io ormai ho rispondi. Perso le 14, cioè sì, ci sarò, certo. E allora vedete che già sono 2 su 21 le previsioni azzeccate da Pierluigi Pardo. Ciao Pier! Ciao, non l'ho capita questa. No, 2 su 21, almeno domani ci sei. Comunque. Sì, vedrete che domani c'è al telefono dal Brasile, e quindi previsione azzeccata. Quindi eri a 1 su 20, mo sei a 2 su 21, così l'amico è contento. Ti voglio ricordare che fra i tifosi della Germania domani ci sarà anche Rosberg, insomma, nonostante una simpatia per la Finlandia che lui non ha mai nascosto, però insomma cercherà di cancellare la delusione di ieri con la vittoria dei tedeschi. Ciao Pier, traffico. Ciao, ciao, ciao, ciao. Tutti tutti convocati. Ladies and gentlemen, the Wimbledon champion Novak Djokovic. The first tennis match that I ever seen in my life when I was 5 years old was Wimbledon. This is the tournament that I always dreamed of winning. This is the best tournament in the world, the most valuable one. First of all, I would like to dedicate it to my future wife and our future baby. I would like to dedicate it to my family, my parents, my brothers, and my team, of course. And last but not least, I would like to dedicate this title to my first coach that taught me all the basics of tennis shots and behavior and everything I know about tennis, Jelena Genshin. She passed away last year and this is for her. Io mi sono emozionato, l'ho detto per Nibali ieri al tour, però sono rimasto incollato al televisore per le magie di Djokovic e Federer. E allora, reduce dalla bellezza, dalla grande bellezza di Wimbledon, Paolo Bertolucci. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno a tutti. Ha vinto il migliore o poteva finire diversamente? Beh, quando si tratta di due fenomeni del genere che si danno battaglia per 4 ore senza esclusione di colpi, ci hanno fatto vedere delle cose veramente fuori dal mondo. In campo e riascoltando ancora una volta queste dichiarazioni, anche fuori dal campo, qualcuno dovrebbe imparare. Sì, oggi molti inseriscono la finale di ieri nella galleria delle più belle finali degli slam di tutti i tempi. Non so se ci sia esagerazione, non so se poi rivista in futuro perda parte di questo fascino. Certamente è stata una grandissima partita. Sì, è una gradatoria impossibile. Diciamo che negli ultimi 20 anni, parliamo di questo, direi che sta tra le prime 3 sicuramente. Poi la classifica è uno sport da bar che diverte i tifosi. L'ha vinta Djokovic è diverso rispetto a quello che noi abbiamo imparato a conoscere per tanto tempo. Mi sembra più maturo, meno guascone, meno istrionico, diverso anche da quello che l'ha vinto questo torneo nel 2011, che sembra una vita fa, ma era in realtà 3 anni fa. Sì, beh, sai, passa il tempo, adesso, come appena detto, si sposa, avrà un figlio, è sempre un personaggio fantastico, divertente fuori dal campo, ma in campo è meglio lasciarlo perdere, perché è di una solidità, di una forza mentale, di una elasticità fisica che è spaventosa. Ieri, per battere la miglior versione, credo, degli ultimi 3-4 anni di Federer, c'è stato bisogno proprio di rivedere il Nole del 2011, un giocatore praticamente inavvicinabile. Nonostante tutto ciò, è mancata, come dire, solo la zampata finale al leone Federer, ma insomma è andato vicino. Poi mi ha veramente emozionato come mai, secondo me, in carriera, anche quando ha trionfato, per questa sua voglia di ribellarsi dopo la sconfitta, di star lì, di provarci, di rovesciare per alcuni momenti anche la partita, che nel quinto set all'inizio sembrava quasi scivolare dalla sua parte. Poi alla fine queste partite qui vengono, anche se giocano 5-7, vengono decise da 3-4 colpi, una mezza riga, un nastro. Alla fine ha vinto Nole meritatamente, ma diciamo che è una di quelle partite in cui dispiace che nel tennis non ci sia l'X. Sì, non c'è il pareggio, ha rischiato di perderla, ha pesato molto, credo, anche quel match point, decimo game del quarto set, ace di Federer, partita che va avanti, peso dei fantasmi, delle finali perse nell'ultimo anno, Wimbledon, gli US Open, Parigi. Djokovic è stato bravo anche perché è riuscito a convivere con quei fantasmi e alla fine a batterli. Sì, ma è la grandezza di questi personaggi che sinceramente non capisco come facciano a cancellare in 10 secondi un momento negativo, un disagio anche fortissimo, eccetera. Sono da soli in mezzo al campo, non hanno compagni, non hanno praticamente allenatori, non hanno sostituti, e in un attimo riescono a ritrovare la calma, la concentrazione, la determinazione che soltanto i fenomeni riescono ad avere. Federer quasi 33 anni, mi pare di aver capito, ha detto ieri: ci rivediamo qui fra un anno perché ci riprovo. Anche lui è un fenomeno. Sì, forse il più grande dei fenomeni. Più grande di sempre. Probabilmente sì, insomma, ci sono titoli, risultati, insomma, ha perso due volte in finale a Wimbledon in 5-7, per il resto le ha sempre vinte, è una cosa stratosferica, come d'altronde lo è Nadal sulla terra battuta, ha vinto 9 volte Parigi negli ultimi 10 anni, insomma, qui stiamo parlando di mostri sacri che io ho, come dire, la fortuna di poter commentare, di poter vedere da vicino, ma non so in futuro se avremo ancora questa opportunità. Bilancio italiano, a parte la meravigliosa storia delle Rani della Vinci, che insomma sono oramai una leggenda, un pezzo di leggenda del tennis, e non è un tennis minore perché parliamo di doppio, parliamo di donne, è un pezzo di leggenda che merita di essere celebrato in un panorama, mi sembra, fondamentalmente negativo, almeno per questo Wimbledon. Sì, non sembra che ci sia tanto, diciamo così, da rallegrarci della spedizione azzurra, però insomma lasciatemi rimarcare, insomma, queste ragazze che vincono per la quinta volta uno slam, per la prima volta a Wimbledon, vanno celebrate in maniera incredibile, perché siamo di fronte veramente a una coppia di livello assoluto, e visto anche il panorama, perché a Wimbledon ho visto anche le altre coppie, secondo me per diversi anni ancora ce le potremo godere ai vertici mondiali. Il tennis maschile, come dire, ha fatto piacere Bolelli, qualcosa meno Fognini, Seppi purtroppo stava male. Non abbiamo proprio giocatori da erba e non abbiamo giocatori che sono di buonissimo livello, ma che non possono competere quando l'asticella si alza così tanto. Sì, e quindi ci dobbiamo accontentare, almeno per quanto riguarda l'erba, di quella meravigliosa storia che hanno disegnato Sara Errani e Roberta Vinci, che è già tanta roba, perché è già tanta roba. Però adesso inizia il resto della stagione, e nel resto della stagione invece siamo assolutamente competitivi. Grazie Paolo. Grazie a voi. Grazie Paolo Bertolucci. Marcello dalla provincia di Siena. Marcello. Sì, buongiorno, grazie della convocazione. Ciao, buon pomeriggio. Sono contento anche che mi avete chiamato a ridosso della fine della trasmissione, quasi, perché vorrei lasciare un elemento di riflessione. Si discute tanto, avete discusso anche oggi, del nome del CT, di chi può andare bene, però obiettivamente il problema della nostra nazionale parte da molto più lontano, secondo me. Voglio solo portare un piccolissimo esempio personale. Io seguo mio figlio che gioca a calcio, insomma, da quando ha pochi anni. Siamo arrivati al momento in cui o diventa professionista o rimane un dilettante. Abbiamo la possibilità di accedere a una squadra, diciamo, di livello. I parametri che vengono chiesti sono non meno di 1,70. Sì, parametri fisici più che tecnici. Non un chilo di più e non oltre 16 anni. Ma questo è uno dei problemi, questo è uno dei problemi del nostro calcio. È un problema grande, però è una questione culturale, cioè noi siamo abituati a fare così, altri altrove, ad esempio in Spagna, fanno diversamente, prendono Messi anche se è alto un metro e un tappo. Abbiamo tempo per Alberto da Cremona? Dai, ci proviamo. Alberto, buon pomeriggio. Sì, ciao, buon pomeriggio e grazie per avermi convocato. E io veramente avevo partecipato alla prima parte su Prandelli e volevo semplicemente dire che sono veramente basito dal trattamento che un po' tutti voi, giornalisti, stampa, addetti ai lavori, eccetera, gli avete fatto a questo pover'uomo. Pover'uomo, però sa, insomma, noi siamo qui, lui fa benissimo ad andare a Istanbul, a terra alle 18. Ma se ci spiegasse che cosa non è andato bene in Brasile, ma noi saremmo contenti, poi diciamo in bocca al lupo Cesare, il migliore di oggi. Fausto da Treviso, Fausto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Fausto da Treviso. Niente, io guardo, ho chiamato giovedì e avevo fatto fatalità il paragone a Prandelli con Schettino. Sì. E poi è dato un servizio per Mediaset, fatalità, abbinando due persone nello stesso momento, quasi avessi avuto una cosa da indovino. Niente, io volevo sapere, cioè, perché Prandelli ha avuto, cioè tutti hanno incensato, hanno detto una brava persona, un signore, si è dimesso, bla bla bla bla bla bla, bla, e poi alla fine si è comportato come uno che ha abbandonato la nave. E poi alla fine se n'è andato e a terra alle 18 a Istanbul. Ci fermiamo qui, Franco Piantanida, autore di questa puntata, Claudia Schiattone in regia, in redazione, Roby Scaltritti in regia. Domani torna Carlo Genta, Ciao a tutti. Tutti convocati.